4 e mezza, tra 2 ore in giro. Yeah, yeah. Scaricate il culo, mixtape di Nello Sollevante. Ma veramente io devo tirare bombe. Yes, yeah. Troppo sonno. Yeah, ci vuole troppo, troppo sonno. Scaricate il culo, mixtape di Nello. Devo fare i conti col sonno. Io non le conto le ore quando non dormo. Io conto solo i momenti in cui non sopporto la voglia di fare qualsiasi tipo di scontro. È una vita superficiale. Sono un super in gamba, in pratica 26. Sono ancora in branda con la voglia di farne tanta di grana. Ancora una puttana risveglio. Ma stanotte non dormo, questa notte non sogno. Questa notte ho bisogno del tuo sostegno morale. Stanotte la luna vorrei rubare. Stanotte non la passa a riposare. Sento ancora i tamburi più duri hanno del sentimentale. Maledetta notte da galera e vado con una lametta. La mia vita in cameretta è per quello che poi ne sai. La mia vita è da mezza calzetta. A modo mio me la vivo come posso. Ma a modo mio e risolvo gli scazzi sempre. A modo mio provo a fare. A modo mio hai sbagliato perché hai fatto. A modo mio me la vivo come posso. Ma a modo mio risolvo gli scalzi sempre. A modo mio provo a fare. A modo mio hai sbagliato perché hai fatto. A modo mio si parla a modo mi sbaglio. Il coraggio lo trovi quando sei in gruppo. Se mi strizzi le palle non è che abbaio. Ma ti salto al collo raga, stanotte flutto e pissello. Alla terrazza hai visto la scena. Poi dimmi no, non ti ha fatto un po' di pena? Si dice blow. Con il fiato acceso la casa che trema. C'è chi a metà show esce fuori perché si grema. Sono solo un bersaglio, io mi automitraglio. È un dettaglio che trovo soltanto tipe da taglio. Bene, bene. Prova a fare. A modo mio hai sbagliato perché hai fatto. A modo mio me la vivo come posso. Ma a modo mio e risolvo gli scazzi sempre. A modo mio prova a fare. A modo mio hai sbagliato perché hai fatto. Vivo come posso. Ma a modo mio e risolvo gli scalzi sempre. A modo mio provo a fare. A modo mio hai sbagliato perché hai fatto. A modo mio mi faccio strada senza neanche un turpiloquio. Tra chi si proclama innocuo e dopo picca un fuoco. Vago in un rogo dove brucia chi non paga. Io non pago in questa piaga dove brucia poco a poco a poco a poco. Questo è il mio modo di rispondere, la mia reazione. Ma non pretendo che poi sia la soluzione. Amore non mi ha mai dato amore. Qua c'è chi muore senza lode ma con tuffo tipo frode. Il fiore del male è come il Baudelaire. Taglierei la gola ad ogni troia col tagliere. Quando la rabbia sale è solo il mondo che io vivo gli rispondo. Modo mio non la secondo perché in fondo, perché in fondo faccio. A modo mio me la vivo come posso. A modo mio e risolvo gli scazzi sempre. A modo mio prova a fare. A modo mio hai sbagliato perché hai fatto. A modo mio me la vivo come posso. A modo mio e risolvo gli scalzi sempre. A modo mio prova a fare. A modo mio hai sbagliato perché hai fatto. A